Rock FM presenta Country Skyline. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera e buonasera ancora a tutti voi cari ascoltatori di Rock FM, Maurizio Faulisi. Anche quest'oggi apre il microfono quando sono le 23, veramente puntualissimo quest'oggi, veramente puntuale questa sera. Si comincia con Country Skyline in diretta. Oggi è martedì e quindi è in diretta, in replica il venerdì. Country Skyline, per chi ama la musica di origine tradizionale, roots e country, quindi tutto quello che ci sta in quel contenitore che si chiama country music, un termine che vuol dire moltissime cose e spesso al cui interno stanno dentro generi musicali molto lontani, sono lontani cugini. La musica tradizionalissima del sud-est, quindi l'old time music, con il Bakersfield Sound della California, dal Nashville Sound del New Country di Nashville, al Western Swing del Texas. Musica che ha a che fare con la tradizione anglo-scoto-irlandese, che spesso ha a che fare con il blues, ma anche col jazz. Insomma, ascoltare una trasmissione di country music può voler dire entrare in un mondo fantastico i cui confini sono davvero, davvero difficili da stabilire. Se volete provarci, se passavate di caso sulle frequenze di Rock FM, allora fermatevi, godetevi questa puntata, perché questa puntata è particolarmente interessante e ve lo prometto. Il numero di SMS è 338-6171-300, 338-6171-300, e iniziamo con una chitarra elettrica, una chitarra vera, mica quelle chitarre, no, sto parlando di una grande chitarra, la chitarra di Brad Paisley. I'll take you back. When a freight train jumps off a track and rolls down my road, and it's summertime in Texas and they're playing in the snow. When politicians everywhere stop telling lies and only state the facts, right then, that's when I'll take you back. Let's say I get bucked off a bull and fall and hit my head. Then I get amnesia and forget the things you said. I lose my better judgment and I take up smoking crack. Right then, that's when I'll take you back. Part-time job parking cars. When Clint Eastwood does ballet in a big pink leotard. When a donkey wins the derby as he takes his victory lap. Right then, that's when I'll take you back. Go on, keep trying. Come on, keep calling. You know I like it when you come crawling. It's like that old morning morning sun rises in the west. They pass a law in L.A. banning artificial breasts. Cars can run on water, gasoline and oil ain't worth jack. Right then, that's when I'll take you back. Go on, keep trying, come on, keep calling. You know I like it when you come crawling. It's like music to hear you squalling. Tanti credevano di suonare bene prima che arrivasse lui. Il suo nome è Brad Paisley. Ha iniziato nel 99 con un disco intitolato Who Needs Pictures. Siamo giunti al 2005 con Time Well Wasted. Tempo sprecato bene. Il suo grado di autoironia sempre simpaticissimo. Grande alla chitarra, come grande nello scrivere testi. È grande nel non prendersi troppo sul serio. E questo, ragazzi, credetemi, è un tizio che va preso davvero, davvero sul serio. Brad Paisley è con lui che abbiamo cominciato questa sera con I'll Take You Back, tratto dal suo quarto disco inciso ancora per la Arista Records nel 2005. Dovrebbe essere, essendo il quarto disco, dovrebbe essere un disco che forse poteva non entusiasmare come i precedenti. Insomma, si parte sempre con la botta, quando si fanno conoscere hanno un buon debutto, poi magari si sostengono bene con il secondo, il terzo così, il quarto, beh ragazzi, è sempre in crescita, è sempre altissimo, sia dal punto di vista del riscontro della critica così come del pubblico. Perché questo ragazzone della West Virginia, nato nel 1972 a Glendale, West Virginia, davvero, davvero si può ritenere la grande sorpresa di fine millennio. E se ve lo dice il Faulisi, una certezza. Andiamo in Georgia a trovare una certezza. Il suo nome è... ma lo ascoltiamo spesso questo qui, eh? Che sia una trasmissione di rock and roll o di country. Questo qui, signori, è... No, l'avete indovinato. Travis Street! Take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl by phone in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Baby, I got to know if your sweet love's gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up our climbing in, take it easy. Yeah. take it easy. Don't let the sound of your own wheels make you crazy. Come on, baby, don't say maybe. I got to know if your sweet love is gonna save me. Dalla West Virginia di Brad Paisley alla Georgia di Travis Street, lo abbiamo ascoltato con il classico dei classici, un pezzo che tutti conoscete, non c'è bisogno di annunciarlo. Take it easy, take it easy, take it easy. Degli Eagles che sono stati in Italia all'Arena di Verona recentemente, esattamente alla fine di maggio, mi pare. Ecco, non conosco nessuno di quelli che sono andati ad ascoltare gli Eagles all'Arena di Verona. Qualcuno di voi è stato all'Arena di Verona ad ascoltare gli Eagles? E magari qualcuno è stato a vedersi e ascoltare Emmylou Harris e Mark Knopfler qualche giorno dopo? Li ho visti in televisione, io non sono stato in grado di andare all'arena né per gli Eagles né per quei due grandi maestri di Emmylou Harris e Mark Knopfler. Li ho visti in un contesto decisamente, oddio, cantavano una canzoncina dal loro ultimo album che hanno inciso insieme, e l'hanno cantata al Festival Bar. Nulla da dire con il Festival Bar, assolutamente nulla, ma loro erano davvero fuori contesto, e infatti è stata proprio una cosa tirata un po' per i capelli, no? Per la giacchetta, come si suol dire. Qualcuno di voi ha ascoltato all'Arena di Verona? Vuole raccontarci magari brevemente via SMS come sono andate le cose? 338-6171-300. Io in cambio vi faccio ascoltare un'altra canzone, perché non sono riuscito a lasciare a casa questo disco che vi ho già proposto la settimana scorsa, e no, non ce l'ho fatta tirarlo fuori dalla borsa, l'ho lasciato lì, ho detto no, questo disco Gone di Dwight Yoakam va riproposto anche questa sera. Sorry You Ask It, Dwight Yoakam. Sorry you asked me the reason that she's not here with me tonight. I know you were probably just acting polite. You'll be sorry you ever asked why. We started having problems in August last year. Things have been kind of rough for quite a while. And you know how you think it'll work itself out. Yeah, well, mister, that thought's wrong. By a long, long mile. Sorry you asked me the reason that she's not here with me tonight. I know you were probably just acting polite, but you'll be sorry you ever asked why. I might should have seen we were drifting apart, but I was in what I guess you'd call denial. And I'd always heard him say, you're the last one to know. Hey, well, buddy, I was last by a long, long while. Reconciling to a drop dead halt. Aren't you sorry? ditemi un po', questi ritmi, questa musica che tanto ricorda gli anni 50 e 60, ma soprattutto queste trombe, che cosa vi ricordano in particolare? Oh, oh! Ah, è sempre un piacere avere Johnny Cash a Country Skyline. Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire. È vero, è vero, è vero, l'ascoltiamo spesso questa canzone, ma insomma è davvero difficile resistervi, no? Era Johnny Cash nel lontano 1963. Ciao, pensa, ti stavo per chiedere un pezzo di Johnny Cash, proprio questo. Vuoi dire che la sintonia è tale con gli ascoltatori che succedono cose di questo tipo? Questo è uno dei soliti ascoltatori, uno dei fedelissimi di Country Skyline e non solo, ma ce n'è un altro che dice buonasera a te Maurizio, vogliamo fare i complimenti e tanti auguri a Kitty Urban per l'imminente matrimonio. Qui ragazzi non ci risparmiamo, riusciamo a dare anche notizie rosa con una nonchalance che solo noi riusciamo a... Il numero di sms è 338-6171-300, vi darei anche quello del telefono. Non fosse che poi magari cominciate a chiamare e io non riesco a portare avanti la trasmissione, come ha fatto questa ascoltatrice quasi disperata, sull'orlo della disperazione. Alcuni minuti fa ha chiamato facendo presente che il segnale su Milano è davvero disturbatissimo e la cosa la rattrista particolarmente perché pare, stando a quello che dice lei, e non vedo perché debba mentire, pare che ascolti tutte le sere le trasmissioni di Rock FM e questa sera andrà a letto più triste del solito. Un saluto Sabrina, mi riascolterai sicuramente venerdì in replica e quindi questa canzone la voglio dedicare a te. Una canzone di Carl Perkins, una canzone di Carl Perkins che normalmente si infila in Good Rockin' Tonight, l'altra trasmissione, quella che tratta rock and roll, ma sappiamo... Ma vuoi per un legame che ha con Johnny Cash, proprio perché hanno iniziato tutti e due nella stessa piccola casa discografica di Memphis, la Sun Records. Vuoi perché il background culturale è assolutamente lo stesso. Vuoi perché per una serie di altre motivazioni. Vuoi perché questa canzone che vado a presentarvi di cantata da Carl Perkins, esce dal repertorio del mitico e indimenticabile Hank Williams. Vabbè, comunque Carl Perkins a tutto diritto rientra quest'oggi in Country Skyline. La canzone bellissima è Collider. Fell in love with the Indian maiden over by the antique store. Collider, too stubborn to ever let it show, and she could never answer yes or no. Poor old Collider never got a kiss. It was in the early 1950s when the great Hank Williams had this Collider. And how well I remember today, fellows like Roland James, Roy Orbison, Scotty Moore, myself, sat around the Sun Studios with our little guitars. We put guitar licks into the Collider like this. See, we were just fooling around with Hank's beat, that's all. Ooh, he always wore his Sunday belt, but he held a Tommy Hawk. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Collider, too stubborn to ever show a sign, cause his heart was made of knotted pine. Poor old Collider never got a kiss. Poor old Collider, he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Collider, that poor old kid. Yes, thanks for all those sweet memories, Hank. E finisce proprio ringraziando Hank Williams per i grandi ricordi che ha lasciato a lui e a milioni di altri appassionati di musica. Questa era una canzone di Hank Williams intitolata Collider, l'abbiamo ascoltata da una incisione del 1978, allora era ancora in ottima forma il bravissimo Carl Perkins. Per chi non lo conoscesse, per chi non si ricordasse l'importanza della figura di Carl Perkins, voglio soltanto fare un nome, un titolo: Blue Suede Shoes. Se questo non vi dice niente, allora potete spegnere la radio, andare a farvi una no, scherzo, siamo qua apposta ad aprirvi le menti se possibile e senza presunzione. Bene, quindi passiamo. Ah sì, abbiamo ascoltato, abbiamo aperto la trasmissione facendo una tiritera su tutto quello che si ascolta durante questa trasmissione che si chiama Country Skyline, ma davvero, le direzioni che si possono prendere partendo dal termine country sono innumerevoli. E naturalmente quella del blues, giusto per fare un piacere anche all'amico Travis, e non solo a lui, sicuramente anche a voi. Questa sera ci ascoltiamo un blues acustico, perché sì, blues, ma soprattutto acustico, se si parla di inserire il blues nella trasmissione Country Skyline. Il blues è una componente, d'altronde, molto, decisamente importante della country music, ha influenzato notevolmente il mondo della country music, la tradizione dei bianchi di origine anglo-scoto-irlandese. E grazie al blues che poi sono nati generi musicali e che si hanno dato, hanno avuto quella direzione piuttosto che un'altra. Ecco, ci ascoltiamo un'artista donna bianca. Non sono moltissime le blues girls, le blues lady, così come non erano tantissime le country girls fino a un po' di anni fa. Adesso si possono fortunatamente ascoltare tante donne che eseguono country music ad altissimo livello, sdoganate finalmente. E così anche nel blues, forse la proporzione era leggermente superiore, ma ascoltare musica blues da artiste bianche, questo è forse un pochettino più difficile. E quando si ascolta Rory Block, davvero i brividi lungo la schiena sono assolutamente obbligatori, e è naturale che arrivino, e arriveranno anche voi ascoltando questa Jolly Bound dal terzo LP Rounder della brava e anche bella Rory Block, Jolly Bound. Police coming with ball and chain. Police coming on with his ball and chain. Accusing me of murder, I never harmed no man. Well, some got 6 months, some got one solid, yeah. Some got 6 months, some got one solid year. Now me and my buddy got a lifetime here. Well, the lawyer pleaded, clerk he wrote it down. Lawyer pleaded, clerk he wrote it down. Your sentence must be Joliet bound. Well, you can cook my supper, let me go to bed. Cook my supper now, let me go to bed. I've been drinking white lightning, has gone to my head. Wanna do? Quit me, baby. It's the first thing that you wanna do. Someday you gon' want me, babe. I won't want you. Well, police shoot the gun, pain all in my side. Police shoot the gun. Ain't all in my side. If you run from me, must be bound to die. When they had my trial, you could not be found. When I had my trial, you could not be found. And I'm Joliet Bound. Joliet Bound, bravissima, bravissima, bravissima Rory Block. Ebbene, siete all'ascolto di Country Skyline, l'appuntamento settimanale con la Roots Music, la Country Music da Rock FM, e il martedì in diretta e il venerdì in replica. Il numero di SMS è 338-6171-300, fatevi sentire, se li sono fatti sentire in parecchi la settimana scorsa, tant'è che mi sono arrivate una bella montagna di richieste che vedrò di accontentare questa sera. In che maniera? Beh, innanzitutto voglio ricordarvi che qui in questa trasmissione spesso e volentieri si ascolta dell'ottimo bluegrass. Non sempre si ascolta bluegrass dai grandi padri del bluegrass, quindi musica degli anni 40 e 50, perché davvero abbiamo pochissimo tempo, soltanto un'ora a nostra disposizione, quindi giusto per essere come dire, più convincente nel coinvolgere gli ascoltatori, i potenziali ascoltatori che possono diventare anche appassionati di bluegrass, allora cerco di farlo attraverso incisioni più moderne, più accattivanti. Però quando mi arriva una richiesta via SMS, una richiesta come quella che mi è arrivata settimana scorsa, che parlava di una dei grandi, allora a questo punto io cedo, ma più che volentieri, e vi propongo due canzoni, ma non prima di avervi ricordato che siete all'ascolto di...